Ay, ay, ay. These beats be Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui. Mi dispiace, devo andare via, via. Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui, qui. Mi dispiace, devo andare via. È un'altra notte in zone, mi nascondo tra le ombre. Questa vita offre, ma al contrario toglie. Ho visto i sogni morire davanti ai miei occhi. Tu non parlarmi, meglio se non mi tocchi. Nato senza un pianto, ma con i rimpianti. Ho sempre lo stesso obiettivo, spaccare quegli impianti. Finché avrò fiato in gola, finché la mia voce resta un'arma. Il microfono è una pistola. Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui. Mi dispiace, devo andare via, via. Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui, qui. Mi dispiace, devo andare via, via. Di questo mondo siamo passeggeri. Abbiamo tanto da imparare, siamo nati ieri. Tu lasciami fare, lasciami sbagliare. Non darmi consigli, potresti sbagliare. E vivo intrappolato dentro di me, ehi. Se mi manca il fiato, non chiedermi perché. È questa vita che ha picchiato troppo duro. Mi ha preso e tolto un futuro. Cerco spazio in questo posto buio. Io non ho risposte, sono già finite. Non farmi domande, tanto non capite. E tu non capiresti, non leggere i miei testi. Troppi contesti, non capiresti. Non c'ho piano B, niente piani di riserva. Vivo oggi, non domani, non spiacente, non ho piani. Parlate di svoltare, stando stesi sui divani. Non capite, vi stanno uccidendo con le vostre mani. E tu che fai? Per essere felice, resta con lei. Ma sappi solo che è un'attrice. Tanto non ti ama, anche se non lo sai. E se ti va bene, non te ne accorgerai. Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui. Mi dispiace, devo andare via, via. Io non posso farlo, no, non posso restare. Ehi, il mio posto non è qui, qui. Mi dispiace, devo andare via.